Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero, il rotocalco settimanale di Radio 24. Prima di svelarvi come sempre l'argomento della giornata, che è un mistero oggi davvero, perché non abbiamo in questo momento nemmeno sulla nostra pagina di Facebook, ma tra poco lo scoprirete. Voglio ricordarvi l'appuntamento alle 11.30 con Picasso in 24 minuti. Oggi ancora la possibilità di portarsi a casa il catalogo della mostra a Milano e a Palazzo Reale, e non soltanto il catalogo ovviamente, ma anche il biglietto d'ingresso. Ma oggi c'è anche la possibilità di portarsi a casa il viaggio a Malaga per due persone, quindi per conoscere dal vivo i luoghi di Picasso. Per prenotarsi vi do subito il numero verde 800 24 00 24. Noi giocheremo alle 11.30. Cosa dovrete fare? Dovrete indovinare il titolo di un'opera di Picasso che in qualche modo si lega alla canzone che state per ascoltare. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Mi dovrà passare. È una canzone molto famosa di Alex Baroni, poi la ascolteremo alle 11.30, e questa canzone in qualche modo si lega all'opera di Picasso che dovete indovinare. Vi ricordo ancora il numero 800 24 00 24, 11.30. Per quanto riguarda invece la puntata di oggi, parliamo di cura, avere cura delle cose, avere cura del nostro ambiente, avere cura di ciò che mangiamo, avere cura di noi stessi, avere cura degli altri, insomma avere cura in generale. Crediamo che sia importante aver cura, e di questo vogliamo parlare con voi anche e con gli ospiti del riposo del guerriero. E quindi i vostri messaggi, come sempre, quali sono le cose delle quali avete cura o alle quali vorreste dedicare cura, o che vedete ormai perdersi nei meandri della non curanza. 349-238-6666 i vostri messaggi. E prima dei nostri ospiti, ovviamente, la canzone che introduce la puntata, che non poteva che essere questa. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ecco la parola chiave della puntata di oggi. Questo è Franco Battiato, l'avete riconosciuto ovviamente, però è di Sgalambro. Questa è La Cura. E con me c'è Angelo Maramai, che è il direttore generale del FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano. Direttore, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto spieghiamo il FAI da cosa nasce, perché si fonda su... sulla cura delle cose che vi sono state date da curare, funziona così. Esatto, esatto. Parte da un progetto di cura in un'epoca, come dire, non sospetta, 35 anni fa, un bellissimo castello, che è il castello di Avio. Tutti l'abbiamo visto andando verso a sciare per il Brennero, si erge bellissimo in alto a sinistra quando si va sulle montagne. Ecco, quel castello stava crollando, era in totale abbandono. Il FAI, poche persone illuminate del FAI, decidono di farsi carico del suo restauro, se ne prendono cura, scoprono cose meravigliose nel restauro di questo castello, e adesso questo castello è visitabile, aperto a tutti, e chiunque può andare lì e avere un'esperienza del passato, del nostro Medioevo, un pezzo di storia fantastico, strepitoso. Ecco, il FAI è proprio questo, parte da un concetto di riscoperta, riscoprire il nostro passato, la nostra cultura, questa tradizione storico-artistica che in Italia attraversa le epoche, attraversa momenti storici fantastici, che pone il nostro paese come uno dei più importanti del mondo per il suo immenso patrimonio. Averne cura è una cosa meravigliosa, perché ti permette di far riscoprire a tutti cose strepitose. Ecco, il problema è che a volte siamo proprio noi che di cura non ne abbiamo. Lo so che è un capitolo enorme, magari oggi riusciremo anche a discuterlo un po'. Intanto vi ricordo il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Magari c'è qualcosa che appartiene alla vostra vita, al luogo dove vivete, che vorreste dare al FAI da curare perché nessun altro in questo momento lo sta facendo. E quindi fatecelo sapere. Parliamo della cura nel riposo del guerriero qui su Radio 24. Con me c'è Angelo Maramai, che è il direttore generale del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che sorridendo diceva: non dateci niente da curare perché abbiamo già tanto. No, dateci cose da curare, ne siamo felici, è il nostro mestiere. Purtroppo non possiamo curare tutto. Noi possiamo integrarci in un sistema dove ci sia una forte cura privata, dove lo Stato e gli enti pubblici facciano la loro parte, e noi, come dire, sussidiariamente avere qualche cosa che teniamo in modo splendido e che facciamo rivivere. Ecco, come tutti. Recuperate i fondi? Abbiamo tanti meccanismi, praticamente utilizziamo tutti i modi possibili e immaginabili. Ovviamente facciamo domande di finanziamento agli enti pubblici per quelle che sono, come dire, le linee di finanziamento, e questa è una via che fino a questo momento è stata molto importante, e infatti siamo anche un po' preoccupati visti gli attuali tagli di bilancio. Poi una grossa parte la fanno le aziende. Sui nostri restauri riusciamo a convogliare, poi dipende dai casi, ma insomma anche il 20% del costo del restauro. Quindi il 20% spesso viene da aziende solidali che intervengono per fare un pezzo di restauro. E poi moltissimo i privati. Abbiamo tanti iscritti, io invito tutti ad andare sul nostro sito, a iscriversi, ad aderire www.fondambiente.it, ad aderire alla nostra missione, perché ci date una mano vera, concreta. Per noi è un problema importante tenere aperti questi beni tutto l'anno a disposizione dei cittadini italiani, è anche un costo importante. Ecco, sicuramente è un costo. Sto pensando che non so se sempre o spesso ci può essere anche un ritorno, cioè nel momento in cui io metto a posto un castello, faccio un esempio perché l'hai citato come vostro inizio, e alla fine se io permetto di essere visitato e magari affitto delle sale per dei convegni eccetera, riesco poi a mantenerlo in vita e quindi avere, non dico un guadagno, ma comunque del denaro poi da investire anche in altre ristrutturazioni, a migliorare quello che ho. Funziona così? Funziona proprio così, dici benissimo. Infatti noi traiamo un importante income dall'apertura dei nostri beni, biglietti, affitti d'uso, facciamo tante cose anche per fare eventi che facciano rivivere questi beni. Ecco, non dimentichiamo che automaticamente rivive anche la cittadina o il paese che ospita il luogo, perché tutto poi intorno all'infrastruttura nasce proprio grazie a quello. Esatto, credo, no? Infatti ci creiamo sempre negli hinterland di questi beni anche una amicizia, come dire, locale importante. Il problema è che però di soli biglietti non si vive, certo. Di sole manifestazioni non si vive. Noi riusciamo a coprire i costi di gestione e di apertura di questi beni quasi per l'80%, cioè con biglietti d'ingresso, sì. Manifestazioni, attività di vario tipo, riusciamo a dare una copertura a questi costi per l'80%. C'è però sempre un 20% che purtroppo rimane scoperto, perché ci sono tanti costi di personale, le manutenzioni devono essere continue perché altrimenti c'è un problema di decadimento. Quello che quindi, si è fatto si perde. Esattamente, cui. Quindi la cura è una cosa continua, non può essere dimenticata in nessun momento del giorno, va ben programmata e purtroppo è costosa. Quindi per integrare questa, come dire, perdita che abbiamo, dobbiamo utilizzare tutti i meccanismi di raccolta fondi che solitamente un'organizzazione non profit usa. Ecco, poi andremo un po' nel dettaglio a vedere quali sono i luoghi in questo momento sotto osservazione da parte del FAI, dove avete bisogno, cosa vorreste fare. Io ritengo questo, che la cura del nostro patrimonio, quello che sta intorno a noi, esiste quando c'è anche la cura dentro di noi, no? In generale, lo dico, a cominciare dalla casa. Quindi ho Patrizia Rognoni, ospite qui al telefono. Patrizia Rognoni, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a lei. Patrizia è autrice di un libro che si intitola Tutto casa, 1000 consigli di sopravvivenza. E in questo momento questa parola sopravvivenza vuole dire molte cose. Cominciamo dalla casa. Da dove partiamo, Patrizia? Cominciamo a dire che sopravvivenza può essere un discorso di sopravvivere normalmente, ma anche sopravvivere a tutti i problemini piccolissimi che uno ha quando si ritrova in una casa e magari non è abituato, perché è un single, perché si ritrova all'improvviso a dover risolvere la vita quotidiana. Quindi piccoli consigli possono essere proprio: partite con calma e guardatevi intorno e cominciate ad affrontare i piccoli problemi, perché poi grandi non ci vogliamo pensare, i piccoli problemi ad uno, senza farvi sopraffare. Da dove partiamo? Partiamo dalle pulizie quotidiane. Eccole. Perché se uno comincia a fare pulizia, magari poca, ma tutti i giorni, evita di ritrovarsi di solito la domenica a dover rinunciare al weekend per dare un aspetto, io la chiamo umano, all'ambiente in cui vive. E vivere in un ambiente, torno a dire, umano, aiuta molto anche lo spirito, non solo il corpo ma anche lo spirito, perché vivere nel caos è sempre un brutto modo di vivere. Ecco, quello sicuramente, insomma, si parte sempre da qualcosa. È vero che anche che il tempo immancabilmente non c'è, quindi è tu dici dobbiamo trovarlo, perché facciamo un piccolo regalo a noi stessi. Esattamente, facciamo un piccolo regalo a noi stessi se al mattino prendiamo quei 30 secondi per ritirare su semplicemente il lenzuolo e evitare di tornare a casa la sera dal lavoro e trovare il letto disfatto. Cioè, trasformare, che non si trasformi in una cuccia il letto, ecco, che sia un letto. Esattamente, cioè sono proprio queste piccolissime cose, trovare i 30 secondi finito di mangiare per mettere i piatti in lavastoviglie. Chi ce l'ha? Invece di accumularli nel lavello, che poi alla fine uno si ritrova con una montagna di piatti e si guarda sconsolato e dice non ce la farò mai a lavarla. Esco e vado a mangiare fuori. Ecco, Patrizia, esatto. qual è la seconda cosa, a parte appunto, dici, le piccole pulizie quotidiane da fare continuamente, appunto, per ritornare a casa e vedere la casa almeno apparentemente in ordine, no? Poi sì, se vai, esatto. Ecco, almeno così, come occhio. E poi la seconda cosa, secondo te, da curare, qual è? Quella che manca un po'? Ma un pochino forse anche quell'aspetto ludico. Quindi vuol dire mettere una piccola piantina sul davanzale della finestra, curando delle piantine che però possano sopravvivere in casa. Questo è già un aiuto. Se uno ha la possibilità, un piccolo animale domestico, quello è di grande aiuto. Però lì dipende dal tenore di vita che ognuno di noi ha, perché e viaggia molto, ad esempio, comincia ad avere qualche problema. È curioso come tu, comunque, Patrizia, abbia toccato tutte cose che hanno bisogno di cure, perché le piante hanno bisogno di cure, gli animali hanno bisogno di cure, cioè in generale, quindi l'attenzione verso le altre persone, o in questo caso gli altri esseri viventi a largo, chiaramente, esatto. Poi fa in modo di riuscire ad avere cura anche all'esterno e quindi alle cose che ci circondano. Dovrebbe certo funzionare così, dobbiamo partire da lì, insomma. E avere cura anche come potremmo dire, indirettamente anche di se stessi. Ecco, questo poi ci arriveremo anche nel corso della puntata. Patrizia, ti ringrazio, buona domenica. Ciao. È stato un piacere altrettanto. Grazie. Tutto casa, mille consigli di sopravvivenza, edito da Giunti. Allora, torniamo a parlare con Angelo Maramai, il direttore generale del FAI. Allora, c'è qualche cosa che vi stanno a cuore, tutti i luoghi vi stanno a cuore, ma ce n'è uno in particolare, a parte che vedo che sul sito state ancora raccogliendo fondi per il terremoto in Emilia, per ricostruire, esatto. Sappiamo che dovrebbero essere infiniti i fondi quando lì succedono queste cose. È un intervento doveroso, diciamo, indispensabile. Il municipio di Finale Emilia è il classico pezzettino di storia italiana, un palazzo municipale bello, come dire, non la più grande opera architettonica, ma una cosa molto bella che permette agli italiani, come al solito, di vivere in mezzo al bello, che è colpito dal terremoto. Il FAI ha scelto questo municipio un po' come emblema del terremoto. È chiaro che noi non potremmo mai fare chissà quale grande ricostruzione per il terremoto, ma un intervento simbolico sì. Noi vogliamo fare un progetto straordinariamente bello che permetta, come dire, di ricostruire questo palazzo nelle sue condizioni storico-artistiche che lo hanno, come dire, sostenuto per tanti anni, cioè è la vera Italia, quell'Italia che è piena di queste cose così belle, pur non essendo grandi capolavori artistici. Ecco, secondo te è vero che il luogo comune che dice noi italiani abbiamo talmente tante cose che non ne abbiamo più cura, non le vediamo più, è vero o è soltanto una scusa? Io credo sia drammaticamente vero. Cioè, noi parliamo molto di cura, parliamo molto anche di un concetto di cura che significa cultura. Sì. E la cultura è riconoscere le cose belle, riuscire a vederle. Guarda, noi faremo una manifestazione il 21 ottobre che si chiama Fai Marathon. E questa Fai Marathon, che faremo in 70 città d'Italia, è una passeggiata. È una maratona che si corre con gli occhi. Per cui faremo un percorso, proprio con il suo bravo timbrino, per cui devi passare nei vari luoghi, ma passi, guardi delle cose, dai un'occhiata, poi magari tornerai per fare un approfondimento. La tua maratona consiste proprio nel passare attraverso la tua città e vedere con altri occhi quello che tutti i giorni non riesci a vedere. Ecco, questo è un pezzettino di cultura, imparare a vedere quello che ci circonda, imparare a riconoscerlo e ad amarlo, perché è quello che ci dà anche la felicità e la differenza di essere italiani. Siccome molto ci circonda, tu dici, alla fine ci passa un po' sotto gli occhi, non lo osserviamo, cioè guardiamo senza osservare. E questo appunto è un peccato. Altre nazioni hanno molto meno e quindi quel meno che hanno lo valorizzano molto. E vabbè, questo già mi consola un po', perché avevo paura fosse soltanto una scusa. Non so poi se è quello che... spero che sia... cioè, diciamocelo, ecco, che è così. Siamo abituati e quindi ci passa un po' inosservato. Mi piace il messaggio di Luca da Milano e voglio leggerlo perché c'è un po' di amarezza ma anche di forza di andare avanti, mi piace, è per questo che lo leggo, e dice: ecco, da poco separato passo il weekend a rendere più umana la mia casetta. Ecco, immancabilmente quando succede qualcosa poi ci si dedica alla cura, perché prima non si vedeva, no? Non si osservava anche la propria vita quando ci sono i problemi, quindi prendersi cura è anche un momento per ritornare a pensare a noi. Un modo per apprezzare la propria città è cercare di vederla con occhi da turista. Io lo faccio spesso, scrive Lorenzo da Venezia, ha detto Venezia. E Venezia, in effetti, vabbè, io per forza sono un turista, però insomma, poi c'è il famoso luogo comune, no? E quella città è destinata a un luogo comune che è bellissima, ma non ci vivrei. Questo è proprio il luogo comune. Quindi, l'ho detto perché insomma lo sento costantemente. E è curioso chi scrive: io quella dei 30 secondi per il lenzuolo lo faccio sempre. Non è che lascio tutto alle care, brave, generose mani sante, la mamma, perché chi vive in casa lo sa. Ecco, la mamma mette tutto a posto. Un po' come il fai, tanto certo. C'è il fai che mette tutto a posto. No, purtroppo non lo possiamo fare, ci piacerebbe, ma non lo possiamo fare, no. C'è qualche regione italiana più attenta da questo punto di vista? O possiamo dividerci bene? È un po' un luogo comune, però è abbastanza vero. Il centro-nord è più attento al proprio patrimonio, lo cura di più, ci investe di più. Ovviamente è anche un po' un tema che riguarda i fondi. A noi piacerebbe molto lavorare anche al centro-sud, infatti stiamo anche cercando di capire se per esempio il FAI non possa prendersi cura anche magari di qualche grande bene architettonico dentro Roma, qualcosa che riguardi la romanità. Quindi strategicamente vorremmo anche far vedere qualche pezzo di antica Roma, rivivere meravigliosamente. C'è un tema, come dire, di difficoltà nelle aperture al pubblico dei beni storico-artistici italiani, questo è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Con grandi isole di eccellenza, però effettivamente è difficile fruire dei beni pubblici. In molti casi li troviamo un po' abbandonati, con poca attenzione, appunto poca cura, con delle trascuratezze che non sono quello che vorremmo fare noi. Il nostro compito è quello di fare dei modelli, di far vedere dei modelli di gestione di eccellenza. Quando il FAI apre un bene al pubblico, lo vuole aprire al massimo livello, con grande qualità, con uno stile di eccellenza, in maniera tale da capire che effettivamente si può, che un bene può essere vissuto e fatto vivere in una maniera straordinaria e che tutti possono goderne nel modo migliore. Qual è il vostro fiore all'occhiello, ammesso che ne abbiate uno? Uno in particolare, volevo dire, ovviamente. Ma guardi, al FAI facciamo un gioco, ognuno di noi ne sceglie uno. Immagino. Ognuno di noi ne sceglie uno. Ce ne sono veramente tanti. Io le ultime aperture del 2011 abbiamo aperto tre beni che erano uno diverso dall'altro ma tutti splendidi. Una meravigliosa villa prepalladiana vicino ad Abano Terme, la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, un esempio della fine del Cinquecento meraviglioso. Poi abbiamo aperto un bosco, il bosco di San Francesco ad Assisi. Avevamo parlato. Esatto, 60 ettari di bosco con un percorso meraviglioso, in una natura che non è una natura incontaminata, è la natura coltivata. Si era mosso anche Battiato, se non mi sbaglio, per quell'occasione. Sì, vero? Abbiamo avuto tantissimi testimoni. Infatti abbiamo avuto anche tante donazioni private. E il terzo bene aperto nel 2011 è addirittura una cosa completamente diversa, un piccolo gioiello architettonico a Venezia, in piazza San Marco, un capolavoro di un architetto degli anni 50, l'architetto Scarpa, che aveva realizzato per l'Olivetti uno showroom fantastico nel 1950. E l'abbiamo riportato all'antico splendore rimettendoci anche le macchine da scrivere di quegli anni, la famosa lettera 32, tutto quello che significava la grande tecnologia dell'Italia degli anni 50. Ecco, quindi difficile dire qual è la cosa che si preferisce. A me era un po' una provocazione, ovviamente, certo. Però il cuore è sempre toccato in particolare da qualcosa, questo è vero per tutti. Ho una richiesta poi per Milano, ma la farò più tardi. Antonio Longo, buona domenica. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Antonio Longo è il direttore responsabile di Help Consumatori, il sito ve lo dico subito è elconsumatori.it ed è una, voi la chiamate l'agenzia delle associazioni perché riunite molte delle associazioni dei consumatori italiani, dico bene? Sì, è Antonio. Un po' uno strumento nato 7 anni fa e che via via è diventato un po' il punto di riferimento di tutti i consumatori, ma anche dei cosiddetti stakeholder, cioè le istituzioni, le autorità di regolamentazione, i ministeri che si servono, e anche molte aziende e associazioni di impresa che si servono di questa agenzia per dialogare con i consumatori, far conoscere il loro punto di vista, mentre i consumatori possono trovare in questa agenzia che viene distribuita quotidianamente alle 18 di ogni giorno tutte le informazioni necessarie per una migliore tutela dei loro diritti. Ecco Longo, diritti a parte che sono importantissimi, credo che ci sia anche molta attenzione alla cura delle proprie finanze in questo momento. Sì, è in un momento di crisi, di difficoltà finanziaria un po' per tutti, informarsi meglio, sapere le scelte migliori da fare ed eventualmente modificare le scelte già fatte è fondamentale. Noi abbiamo un accordo strategico con un portale che è diventato anche, come dire, il fiduciario dell'autorità delle comunicazioni dell'Agicom, cioè il portale supermoney.it, e lì i consumatori possono trovare molte indicazioni sulla polizza assicurativa migliore, l'offerta energetica per l'elettricità migliore, per il riscaldamento, per la telefonia cellulare o fissa, eccetera. Ma a parte questo, proprio entrando più in dettaglio nella gestione dei propri soldi, è fondamentale un'iniziativa che è stata realizzata dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, con tutte le associazioni dei consumatori, cioè l'iniziativa Patti Chiari. Se i consumatori vanno su pattichiari.it trovano tutti i consigli e le informazioni importanti per la scelta del conto corrente, da quello base a quello più sofisticato, alla scelta delle carte di credito, ai mutui, i mutui fondiari, l'acquisto della casa, cioè si può sapere come rinegoziare con la propria banca il mutuo se è diventato pesante o come cambiare banca con lo stesso mutuo a condizioni migliori oppure come utilizzare meglio i propri soldi. Ecco, queste sono informazioni importanti che si trovano sul sito pattichiari.it. Ecco, direttore, un'ultima cosa, è possibile, basta mettere proprio indirizzo di mail in helpconsumatori.it, avere, diciamo così, il vostro giornale, chiamiamolo in questo modo, quotidianamente via mail, poi lo si può anche consultare ovviamente semplicemente online. Registrandosi, ma basta mettere la propria mail a helpconsumatori.it, si riceverà ogni giorno la nostra newsletter dove ci sono le più importanti notizie. Naturalmente ogni consumatore, ogni cittadino, ogni utente di internet può consultare il sito in qualsiasi ora della giornata, seguire un po' anche lo sviluppo delle notizie. Noi mettiamo in genere sempre una informazione, una notizia in primo piano che è quella più importante, poi ce ne sono altre. Come si fa con i giornali? Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, Antonio Longo, è questa: nell'ultimo periodo è aumentata in modo considerevole la richiesta, oppure non so, è una serie di anni che più o meno siamo stabili allo stesso numero di richieste? No, dunque è aumentata nel senso che i consumatori sono sempre più, attenti. Dire, affamati di informazione. Sì. Per cui noi siamo un piccolo strumento che ovviamente cerca di dare il meglio possibile, non abbiamo le grandi risonanze pubblicitarie, anzi ringrazio molto Radio 24 di darci questo spazio. Le richieste sono continue, richieste di assistenza, richieste di informazione. Ieri abbiamo aperto con una cosa importante, cioè che si lancia una class action contro Apple da parte di Federconsumatori e un'altra associazione di Bolzano. Ecco, queste sono informazioni importanti che possono aiutare i consumatori insieme con i contenuti del decreto crescita che contiene importanti cambiamenti sulle assicurazioni. Helpconsumatori.it vi offre tutto questo. Bene, grazie Antonio Longo, direttore responsabile di Helpconsumatori, buona domenica. Grazie. Ecco, torno a parlare con Angelo Maramai, direttore generale del FAI, per dire... c'è qualcosa che proprio non vi va giù del comportamento o di noi italiani o anche del governo in generale italiano rispetto all'ambiente? Beh, diciamo, magari state cercando di ottenere da molto tempo e non riuscite. Diciamo che la cosa che ci piacerebbe di più è che questo tema, cioè il nostro patrimonio storico-artistico, fosse veramente al centro dell'attenzione. Ormai ce lo stiamo dicendo e lo stanno dicendo anche in tanti, noi lo dicevamo in epoca non sospetta, il nostro patrimonio storico-artistico è un vero patrimonio. Non è vero che la cultura non si mangia, anzi la cultura fa anche parte del mangiare. In tanta parte, diciamo, delle nostre attività anche industriali conta la cultura, e quindi mettere il discorso della tutela, della protezione, ma anche dello sviluppo del nostro patrimonio, dei discorsi politici e dello sviluppo economico del nostro paese, per noi ha profondamente un senso. Partendo ovviamente anche dalla tutela, perché è giusto tutelare come prima cosa, come punto di partenza, ma anche investendo, perché le cose non possono semplicemente essere tutelate, devono essere fatte vivere. Quindi il fatto che tutta la tematica dei beni culturali, del patrimonio, sia sempre vissuta un po' in secondo ordine è un grande problema, ovviamente. Noi ci battiamo molto per questo, ci battiamo anche per portare sempre più persone a farlo in maniera autonoma, come dire, e consapevole, quindi non soltanto aspettandoci che faccia tutto lo Stato, perché ovviamente questo è un problema fondamentale. Noi come cittadini ci dobbiamo muovere. Ognuno di noi ha il suo compito, ha un suo compito di cura, di attenzione e, perché no, anche di denuncia laddove le cose non vanno. Quindi la convivenza, la connivenza con fenomeni di abbandono, di rovina, di degrado, pensiamo anche alla cementificazione, che purtroppo è stata in tanti anni in Italia uno dei temi più ricorrenti, devono essere un po' combattuti da persone che, come dire, fanno una loro analisi culturale, un loro percorso anche di sviluppo e di attenzione nei confronti delle cose che gli stanno intorno. Ecco, la scuola come si pone in questo senso? Ci sono delle iniziative, per esempio, o no? Non c'è abbastanza attenzione, secondo voi? Ma le scuole, secondo me, fanno moltissimo. Bene. Fanno moltissimo con quello che fanno, poveracci, anche gli insegnanti. No, beh, quello che possono fare. Quello, ecco, che possono fare. Se anche pensiamo... perché poi molto arriva dal basso, proprio dall'insegnante, esatto, che per proprio gusto personale... Esatto, noi abbiamo dei programmi, per esempio, per i ragazzi, per i bambini soprattutto, di visita nei nostri beni, che sono molto molto belli. Cerchiamo di tenerli a un costo bassissimo, proprio perché le scolaresche possano venire. In modo che sia accessibile a tutti. Sì. Esatto, esatto, perché ci sia un grande accesso. Però insomma, se pensate ai tagli alle scuole, che ormai gli insegnanti fanno fare le collette per comprare, certo, i beni primari, immaginiamoci. Poi bisognerebbe anche capire invece come gli italiani si comportano, denunciano o non lo fanno, fanno finta di niente, sono veramente interessati o dicono ah che bello quando è bello, ma quando invece lo vedono degradare se ne fregano, cioè come ci comportiamo. Prima di tornare con Angelo Maramai c'è Filippo Ungaro al telefono. Filippo Ungaro, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti voi. Vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, poi protagonista anche di Mangia con me, lo ricordo, tutti i giovedì durante Essere e Benessere, in onda alle 11 qua su Radio 24 con Nicoletta Carbone, per capire cosa sia nel frigorifero e quindi intuire cosa si mangia normalmente e cercare di mangiare bene. Allora, prendersi cura significa... anche quello, non dico soprattutto, ma anche quello, cioè mangiare bene, prendersi cura di sé da un punto di vista dell'alimentazione. Dov'è che ancora sbagliamo, Filippo Ungaro, dopo tanti anni? Ma sì, è una buona domanda, perché uno sarebbe portato a dire che si parla talmente tanto e da talmente tanto tempo di alimentazione che, bravo, non c'è più nulla da imparare. Certo, basta. Ecco, in realtà purtroppo noi ci accorgiamo che non è così e che forse se ne è parlato tanto, ma anche in modo un po' superficiale, e si è creata in certi argomenti, su certi argomenti, parecchia confusione. Anche una confusione legata al tema della dieta, che è un concetto superato, che non ha prodotto i risultati sperati, e quindi dobbiamo muoverci verso un atteggiamento differente, che è quello di imparare veramente a riapprezzare gli alimenti per quello che sono, cominciare a capire un po' di più gli effetti che hanno sul nostro metabolismo a lungo termine, apprezzare tutti i fenomeni nuovi, dal chilometro zero al biologico, ma uscire da quest'idea che mangio come capita, poi risolvo tutto con un mese di dieta, perché questo non funziona, e ci sono molti dati in sostanza dimostrarlo. Mangia con me ha proprio questo obiettivo, cioè è uno dei tentativi in corso su vari media e su vari fronti di agganciare, diciamo, l'ascoltatore non tanto sul concetto dieta ma sul concetto di una nuova cultura dell'alimentazione, perché noi in una vita mangiamo 50 tonnellate di cibo e dobbiamo preoccuparci di che cosa quel cibo fa nel nostro organismo. Ecco, che poi è un po' il punto di partenza di tutte le cose alla fine, no? La conoscenza per capire che cosa va bene e che cosa invece sarebbe meglio evitare. Funziona così. Sì, io, sì, certamente. Io ho paura che sempre invece tutto funzioni sulle mode, cioè è di moda questo, per cui tutti si segue quella, non so, quella moda lì, no? Senza minimamente conoscerla, o semplicemente prendendo a spizzichi e bocconi le conoscenze, pretendendo poi di essere i saggi da questo punto di vista, e poi abbiamo visto sbagliando. L'errore più grosso, ripeto la domanda, se ce n'è uno, Ongaro, che cos'è? Ne abbiamo ancora uno, a parte questo di non conoscere, però non so, nel nostro frigorifero ancora insistiamo ad avere quella cosa, quell'alimento lì. Ma io credo che l'errore più grosso forse in Italia è stato quello di attribuire un'importanza esagerata ai cereali. Cioè il fatto che ci sia sempre stato questo mito della dieta mediterranea, falsando però, interpretando male i dati della ricerca scientifica, che non dicono assolutamente di mangiare tanti cereali, in Italia si è creata una situazione per cui noi mangiamo assolutamente troppo pane, troppo pasta, troppo riso, non badiamo al fatto che questi siano nella forma raffinata o nella forma integrale, e io credo che in parte questo sia ovviamente legato anche alla crescita che c'è stata anche in Italia di fenomeni come l'obesità, in particolare infantile, che non possono certo essere attribuiti qui in Italia ad un eccesso di grassi saturi. Poi complessivamente gli altri due errori fondamentali è che mangiamo troppo e ci muoviamo troppo poco, questo non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo. Tra l'altro l'Italia ha dei primati piuttosto negativi anche sull'attività fisica rispetto ad altri paesi europei, insomma siamo un po' pigri, e quindi bisogna, ripeto, impossessarsi delle informazioni utili per rivedere un po' il nostro stile di vita. Ecco, insomma, noi italiani siamo sedentari, pigri, ci piace mangiare la pasta e anche abbondantemente, e non abbiamo cura dell'ambiente dove viviamo. Mi sembra un bel quadretto. Però siamo sulla buona strada per migliorare. Ah, tanto dai, ne continuiamo a parlare, poi il fatto è poi concretizzare le cose che si dicono, poi qualcuno ci riesce, diciamo, adesso io sto un po' scherzando. Se posso aggiungere una piccola nota, sì. Credo che nonostante tutto in realtà ci sia in questo momento in campo alimentare, per quello che riguarda la salute, una grandissima sensazione di cambiamento, cioè per la prima volta si ha davvero l'impressione che la gente voglia più informazioni e sia disposta a mettersi in gioco e cambiare qualche abitudine, e questo è un grande segnale di cambiamento. Ecco, sì, che poi credo che investa anche molti ambienti e non soltanto questo, e mi interessa arrivarci, adesso ne discuterò anche con Angelo Mai. Grazie Filippo Ongaro, buona domenica. Domenica ancora. Grazie a voi, buona domenica. Vi ricordo, Mangia con me ogni giovedì alle 11 durante Essere Benessere, poi Essere Benessere abbiamo andato da lunedì al venerdì. Torniamo con Angelo Maramai. Avevo una domanda in sospeso che avevo fatto prima, ma adesso però Ongaro così mi ha dato il gancio per chiederle se in effetti c'è più attenzione adesso, cioè finalmente c'è una sorta di presa di coscienza, o in fondo niente è cambiato da qui, da 10 anni ad oggi, non lo so. Io sono piuttosto d'accordo. Ancora, come dire, non è una rivoluzione, non la percepiamo come una vera rivoluzione, però per certo c'è più attenzione. C'è una tendenza, come dire, all'attenzione, a guardarsi intorno. Noi lo stiamo vedendo anche perché stanno aumentando i nostri iscritti. L'iscritto al FAI è una persona, come dire, che ha questo tipo di cura, sì, e di attenzione. E quindi è un bel segnale. Non abbiamo vinto nessuna guerra, come dire. Però il fatto che ci siano degli elementi positivi è come una cosa che ci deve far sperare e lottare ancora. Le denunce arrivano, per esempio? Altro che. Sì. Le denunce arrivano tantissimo. Il vero problema è poi, come dire, dare delle risposte, sì, conseguenti. Però è vero che le denunce, per esempio, adesso stanno arrivando molto di più. C'è una grande attenzione. Dobbiamo anche stare attenti a capirle bene, perché poi come dire, quelli che fino a poco tempo fa cementificavano adesso sono diventati, come dire, dei santi. Quindi dobbiamo stare veramente attenti. Però gli italiani sono molto più accurati. Il FAI ha una rete di delegati territoriali che fa da sentinella sul territorio. È un lavoro, come dire, anche difficile, perché si tratta di capire quali sono i casi più eclatanti, i casi veri, perché non sempre a una lamentela c'è un vero problema, certo, e corrisponde a un problema, quindi bisogna stare molto attenti. Poi il FAI non vuole mai fare la denuncia fino a se stessa, vuol cercare anche di creare una linea di collaborazione, una linea di sviluppo effettiva, quindi cerchiamo di evitare l'isterismo che purtroppo in certi casi si produce. Però ecco, sì, fare da sentinelle sul territorio, denunciare, aiutare a sistemare le situazioni è una cosa fondamentale e molto importante. Può diventare un mestiere per qualcuno il FAI? Sicuramente... state cercando persone, c'è una richiesta, siete di chi avete bisogno? Sicuramente lo è diventato. Insomma, il FAI ha 25 beni aperti al pubblico ed è proprietario di 44 beni nel suo complesso, quindi è molto cresciuto. I numeri però ovviamente sono molto piccoli. Certo, ci sarebbe bisogno, una volta diventati grandi, di tante persone che fanno un lavoro di cura, che diventano esperti per esempio in certi settori, non, come dire, una nuova progettazione in cemento, ma un'attenzione al restauro, un'attenzione al particolare, alla lettura del nostro patrimonio. Pensate se i nostri architetti, i nostri ingegneri fossero sempre più attenti a questi aspetti, riuscissero cioè a salvaguardare quello che gli viene dal loro patrimonio storico-artistico, al loro consolidamento e anche al loro, come dire, alla sua riproduzione verso il futuro. Ecco, quindi ovviamente il FAI è una piccola organizzazione, non può pensare di avere chissà quali grandi numeri. Però, come dire, è cresciuta nel corso di 35 anni, in questo momento siamo quasi 200 in tutta Italia a lavorare per il FAI. Ecco, poi c'è sempre il sito, poi ve lo ricordiamo. Cerchiamo di avere cura di noi e delle cose che ci circondano. C'è Gloria Mastrantonio che ha scritto un libro, si intitola 101 consigli per vivere ogni giorno rispettando l'ambiente. Edito come sempre da Newton Compton, che ha questa serie dei 101 consigli. Gloria Mastrantonio, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Come sempre non c'è il tempo di dare i 101 consigli, ma diamone uno, per esempio, così, domenicale. Uno? Sì, beh, visto che è domenica si parla di pranzi domenicali di solito, 101 consigli, uno di questi potrebbe essere mangiare bene a tavola, in casa, e soprattutto prediligere i cibi da agricoltura biologica, o ancora meglio biodinamica. Nel mio libro parlo come riconoscere cibi provenienti appunto da agricoltura biologica e biodinamica. Ecco, perché scegliere questi tipi di cibi? Tra l'altro prima ne discutiamo con Filippo Ongaro proprio di questo, che è importante avere cura in questo senso. E uscendo invece dalla tavola, cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare, per esempio, ecco, per quanto riguarda la casa, è importante tenere pulita la casa in modo naturale, e quindi utilizzare ad esempio detersivi ecologici, e anche in questo caso do dei consigli su come scegliere detersivi naturali, cioè ecologici, e anche farlo in casa, quindi alcune ricettine per fare dei detersivi in casa che possono andare dalla pulita dei pavimenti e che funzionino. Ecco, mi dispiace che non ci sia, no, dico che funzionino, mi dispiace tra l'altro che non ci sia la possibilità di ascoltare Doriana Rodino, che è curatrice di un libro, non riusciamo a sentirla, non c'è tempo, però lo volevo citare. Si intitola Naturale è bello, punto di domanda, perché c'è questo libro che racconta come le iniziative personali di cura, sia di sé sia della casa, quindi detersivi appunto fatti a mano, cioè modi per pulire la casa naturali, come dicevi tu Gloria, oppure anche modi naturali per trattare bene la pelle, per ammorbidire, cioè se funzionano veramente o meno. Spesso sì, ma a volte forse anche no, e sarebbe stato bello ascoltare quali sì e quali no. Gloria Mastrantonio, ti ringrazio, visto che forse farai il pranzo domenicale, auguro di farlo anche a te. 101 consigli per vivere ogni giorno rispettando l'ambiente, grazie ancora. E torniamo per chiudere, grazie, con Angelo Maramai, al quale chiedo possiamo dare dei consigli a questo punto, aggiungere il 102esimo consiglio, forse primo per quanto riguarda il Fondo Ambiente Italiano? Beh, il consiglio più bello che mi sento di dare a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando è un po' la missione del FAI. Allora, curate le cose che vi stanno intorno quando potete intervenire sul vostro patrimonio, fatelo essere sempre più bello. Ed educate le persone che vi stanno intorno, i vostri figli, i vostri amici, i vostri parenti, a conoscere, perché quando una cosa si conosce la si può amare davvero, amare profondamente, e il nostro patrimonio, se conosciuto, può essere amato tantissimo. E poi il terzo punto della missione del FAI, quella di vigilare e intervenire. Guardatevi intorno, tenete gli occhi aperti e fate in maniera che non vi portino via il vostro patrimonio, perché è vostro, perché è nostro, di tutti gli italiani. Ecco, bisognerebbe avere quella considerazione lì in generale, no? Anche nella quotidianità. Lo so che dico una mezza banalità, però è vero che a volte proprio non abbiamo cura, cioè delle cose che ci appartengono, le scriviamo sopra, le prendiamo a calci, le roviniamo, perché tanto sono di tutti, no? C'è questa idea che quando non sono nostri sono di tutti, lo possiamo farne, ecco, quello che vogliamo. Ecco, lì bisogna proprio intervenire. Ecco, quando vediamo quello che butta la carta in terra, la cosa più banale del mondo, ma quando vediamo la trascuratezza nei confronti di quello che è nostro, appunto, lo ripeto, beh, lì veramente bisogna un po' denunciare, o direttamente o indirettamente. Il FAI poi è anche a disposizione di tutti voi. Sul nostro sito www.fondambiente.it trovate anche l'SOS paesaggio, cioè un modo per fare anche una dichiarazione, una denuncia praticamente in diretta. E ovviamente trovate anche tutte quelle che sono le nostre proposte che vanno dalla raccolta fondi e quindi dall'adesione alla missione del FAI quelle che sono le proposte di vivere i nostri beni, passeggiate, partecipazione a quelle che sono la vita dei nostri patrimoni. Ecco, io adesso mi scusino gli ascoltatori che non sono di questa città, però insomma io conosco Milano ovviamente, e ho a questo punto la lancio lì, abbiamo 2 minuti per farlo e lo vorrei fare, nel senso che noi i vecchi diurni erano i posti dove si andava una volta, si arrivava in treno in una grande città e siccome chi viaggiava per lavoro aveva bisogno di, i commessi viaggiatori per esempio, avevano bisogno di lavarsi, di farsi la doccia, di mettere a posto a volte anche i capelli, perché non avevano tempo, i viaggi erano molto lunghi, per cui c'erano i diurni nelle grandi città, questi posti dove si andava, ci si metteva a posto e ci si curava, appunto, per poi presentarsi al lavoro o dove bisognava essere. I diurni sono spariti perché sono cambiati i tempi ovviamente, ma in qualche modo sono rimasti. Ce n'è uno straordinario sotto Porta Venezia a Milano, completamente, è bellissimo, è Liberty, ancora tutto con le piastrelle tipiche di quell'epoca, con i rubinetti d'ottone, però è completamente dimenticato. Cosa devo fare? aiuto. Tanto ce lo segnali, magari andiamo a vedere e cerchiamo di capire. Adesso la sorprendo con una cosa. Sì. Forse è uno dei beni minori del FAI, quindi compare poco anche sul nostro sito, ma il FAI è proprietario di una barberia a Genova, in un Carugio di Genova, un sì, piccolissimo barbiere, Liberty, una barberia Liberty meravigliosa, abbiamo restaurata completamente, adesso l'abbiamo data in gestione a un barbiere che appunto può continuare a lavorare lì. Ecco, anche questo è vero, è un recupero di un pezzettino di cultura. Come le vecchie farmacie, faccio un esempio. Non me le citi, quelle erano veramente meravigliose. Purtroppo, ecco, torniamo al discorso principale. Non tutto si può fare. Il FAI mira a cose che siano simbolo, sì, ecco, in maniera da far vedere che certe cose veramente si possono fare, che si possono fare con eccellenza, sperando anche che magari ci siano altri esempi, altri soggetti che copiano questo esempio. Ecco, poi quindi non soltanto grandi palazzi, castelli, ville e boschi, ma anche piccole realtà. Anche piccole cose che però sono, come dire, emblematiche, sono dei grandi segni di quella che è la straordinaria cultura italiana. Grazie Angelo Maramai, direttore generale del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Vi ricordo ancora il sito fondoambiente.it. Buona domenica e insomma cercheremo di vedere il nostro paese con altri occhi, sicuramente con molta più cura. Buona domenica ancora. Grazie. Il riposo del guerriero. Cold in ancient Senti chi parla. Francesca Dragotto, la nostra glottologa, buongiorno. Devo dire nostra ormai, Tor Vergata si è dimenticata di te. Sì. No, no, sei sempre lì anche, come no. Oggi chi sentiamo parlare? Un uomo che parla poco ma fa parlare molto, il cui credo prevede che si debba parlare poco, chiaro e per concetti. Un uomo che preferisce ascoltare piuttosto che parlare. Parliamo di Zeman. Età? 57. Quante sigarette fumi al giorno? 3 pacchetti. Ora che fanno le multe, fumi ancora in panchina? Non fumo. Hai fatto una canna? No. Fai un urlo? Oh. Destra o sinistra? Destra mi fa male. C'eri durante la primavera di Praga? La primavera sì, in agosto no. Avrei sin agosto non mi fa ridere, però va bene. No, no, è ma giusto, deve far ridere. Evidentemente Zeman ha raggiunto il proprio effetto. È una vecchia intervista alle Iene, si riferisce al periodo immediatamente successivo a quello in cui Zeman era stato allenatore della Roma, gli era stato preferito dall'allora presidente Sensi Fabio Capello, e insieme alle Iene percorre una retrospettiva di quello che era stato il suo rapporto con la società. Perché abbiamo scelto questo pezzettino? Perché innanzitutto si vede come Zeman già allora reggesse benissimo il ritmo incalzante delle domande e come sapesse rispondere con una proprietà di linguaggio dalla quale appunto traspare facilmente la sua competenza non soltanto sulle strutture fondamentali della lingua ma anche sugli usi traslati non letterali di espressioni che soltanto un parlante bilingue può avere. Zeman, noi è la prima volta che ci conosciamo, che ci vediamo. Sì, anche perché tu fai di solito trasmissioni di diverso tipo, io penso che non c'entro, c'entro poco con questa trasmissione no, che è più per... Per parlare più che altro, questa trasmissione. Beh, se per parlare io sono abituato ad ascoltare. Quindi... Ecco, no, infatti questo è il punto che mi permette di... C'è un'unica regola nel talk show, no? Che uno fa domande e l'altro deve rispondere. Se uno dei due giocatori... Se la sa... Passano 10 anni, ma ritroviamo Zeman mattatore, pronto alla battuta con una notevole mimica facciale e ancora propenso e pronto all'uso di traslati, battute, espressioni che, lo ripeto, rivelano una competenza della lingua decisamente notevole. Che di solito questi film si fanno dopo, no? Quando uno non c'è più. Io ci sono ancora e quindi c'ho tempo. Fazio chiede a Zeman se abbia visto il documentario di Giuseppe Sanson, che anzi ringrazio perché devo a lui una delle pillole che manderò tra poco, e appunto risponde che solitamente non ha visto il documentario, cosa che mette in difficoltà Fazio, ma che solitamente questi film, questi prodotti si fanno dopo. Quindi dimostra ancora una volta di conoscere bene un modo di dire della nostra lingua. Ho visto che ha smesso di fumare. Qui nello studio, perché di solito negli studi è vietato. È vietato, però non, per non lei fumo. Avremmo fatto un'eccezione. Non fumo né a cinema, a parte che non ci vado più da quando non si fuma. Dal 74 penso che non ci vado. Dal 74? Che, certo, da quando si è smesso di fumare al cinema non va più. Qual è che l'ultimo film che ha visto al cinema? Non lo ricordo, però era bello. Non vado al cinema dal 74, non ricordo quale fosse il film, però era bello. Questo ci fa vedere come l'uomo non abbia perso di smalto. Nel pezzo invece che stiamo per sentire, il tono, almeno inizialmente, sarà completamente diverso. Si arriverà però a confezionare una vera e propria perla, una sorta di summa dei valori zemaniani. Sparita Zemanlandia. Mo' ce la faccio vedere di no. Il tono è completamente diverso perché questa intervista si riferisce, anzi una conferenza stampa si riferisce alla morte del suo figlio materano Franco Mancini, al quale fanno seguito una serie di sconfitte del Pescara, 3 sconfitte consecutive. E per riuscire anche a spezzare la tensione, Zeman ricorre a un vero e proprio coup de théâtre, un qualcosa che non è insolito nel suo repertorio, ma che riesce a confezionare in un tempo brevissimo utilizzando pochissimi elementi e ancora una volta facendo riferimento a un'espressione che è tipica di alcune aree dialettali dell'italiano e quindi appunto ci danno l'idea di come domini non soltanto le varietà vicine allo standard della lingua ma anche quelle più vicine alle regioni in cui tra l'altro ha vissuto. Ma io non devo chiudere niente, io penso che sono tribunali che per 10 anni si sono interessati di quei problemi, quindi non sono fatti miei. Basta. Avanza. pasta e avanza. Sì, dopo quella conferenza stampa, il Pescara in anella 6 vittorie consecutive, Zeman lascia Pescara, ritorna a Roma e iniziano gli scontri con le squadre che in qualche modo hanno segnato la prima Zemanlandia. A proposito di Zemanlandia, vorrei aprire una piccolissima digressione, perché si tratta di un neologismo di ritorno per la nostra lingua. Era infatti già riuscito a penetrare nei repertori ufficiali, parlo dei dizionari, intorno al 2003, per poi esserne espunto. Adesso, proprio anche grazie ai documentari che in qualche modo hanno però sancito la fortuna di Zeman e hanno preconizzato un suo ritorno alla Serie A, perché grazie ai documentari di Sansone, Zeman rientrò in contatto con Casillo, e questo contatto, insomma il disgelo che fece seguito a questo contatto, lo riportò sulla panchina del Foggia, appunto grazie alla rimessa in circolazione di tutto quello che è il modo di vedere il calcio di Zeman e dunque di Zemanlandia. Molto probabilmente il termine tornerà a rientrare nei dizionari, e quindi sarà un neologismo di ritorno, essendolo già stato alcuni anni fa. Del pezzetto che abbiamo appena sentito ci interessa appunto la chiusura, che è di nuovo una pointe ricca di acume, appunto in quanto pointe pungente e avanza, che ci fa capire come volesse liquidare l'argomento, però riuscendo a rimanere perfettamente impresso nella mente dell'ascoltatore. Abbiamo cercato di fare la partita, non ci siamo riusciti dall'inizio, la Juventus è stata nettamente superiore per tutta la partita, sicuramente che non abbiamo fatto bene, non abbiamo né difeso né attaccato, e quindi siamo rimasti sempre in balia dell'avversario. Questa intervista non è importante per i contenuti, ma per la forma. Così come accadrà tante altre volte, così come è accaduto, Zeman dimostra, quando è sotto pressione emotiva, la Roma ha appena perso 4-1 con l'avversario per antonomasia, la Juventus, quando è sotto pressione Zeman dimostra, al contrario di quello che accade nella maggior parte di noi, di utilizzare le varietà migliori della nostra lingua che ha a disposizione. Quindi quegli stessi articoli che nel momento in cui non è sotto pressione, a volte dimentica, quasi per lasciar trasparire la propria provenienza slava, ritornano prepotenti, sistematici, quando invece è emotivamente coinvolto da ciò che sta dicendo. Ecco, quindi succede il contrario di quello che accade normalmente a noi. Sì, sì, sì, e questo anzi mi permette di dire che c'è un oiato profondo tra Zeman uomo e Zeman personaggio, e la comunicazione di Zeman, l'uso della lingua di Zeman va proprio in questa direzione. Zeman personaggio lascia trasparire l'interferenza dalla propria madrelingua, che lo porta appunto a non usare gli articoli, a usare a volte frasi un po' brachilogiche che mancano di alcuni elementi o che comunque sono sintetiche, costruite soltanto con gli elementi fondamentali del discorso. Invece Zeman uomo è un uomo perfettamente bilingue e che sa padroneggiare perfettamente l'italiano. E riesce anche a farci sorridere e ridere. Grazie Francesca Dragotto, a settimana prossima. Tra l'altro settimana prossima, Francesca, dovrai anche così cercare di spiegare, magari prendo la voce di qualcuno, perché c'è un messaggio che chiede il nuovo vizio di aggettivare per forza le parole tipo valoriale, emergenziale, eccetera. Se troviamo qualcuno che usa queste parole, sicuramente poi ne faremo una puntata. Grazie Francesca, c'è Davide Paolini adesso. Il gastronauta. Ciao Davide, buona giornata. Buona giornata a tutti. Mi viene così uno spunto alla nostra linguista, sì, magari di sottoporli i menù. Come no, lo faremo. Lo faremo leggere. Beh, c'era Gassman che così per dare prova di recitazione si era messo a leggere un menù. Così per dire. Ma ti dirò, lo sto dicendo anche perché ho sotto mano un menù. Stavo, sì, riguardando un menù dove ho mangiato ieri sera. Sì. E me lo stavo riguardando. E devo dire che ultimamente, se Dio vuole, ci sono molti menù che semplificano tutti. E ne ho visto uno recentemente di un importante ristorante siciliano, che è quello di Pino Cuttai alla Maglia di Licata, il quale ha molto semplificato. C'è scritto acciughe, c'è scritto pasta, senza nient'altro, e quindi sicuramente lascia così all'interpretazione. Devo dire che secondo me più si andrà verso il semplice più si capirà che in quella cucina c'è semplicità e credo che così si mangerà molto meglio. Ecco, anche in questo senso c'è cura, attenzione in questo caso verso chi viene a mangiare, perché quando hai quei piatti con dei nomi particolari che sì, sono sicuramente emozionali, però in realtà non sai cosa stai mangiando, qualche difficoltà nel capire c'è, che devi immancabilmente chiedere di cosa si tratta, no, come ingredienti. Ma guarda, molte volte secondo me questi cuochi sono abituati al ricciolo di burro, schiuno ricciolo di, quindi sono abituati a fare i riccioli di quello che poi danno da mangiare. Ci sono veramente delle pietanze che quando tu hai finito di leggere il menù ti è già passata la fame, perché mettono tutto dentro, mettono sì, tutto quello che, tutti i componenti, secondo me così è addirittura esagerato. Invece bisognerebbe essere molto semplici, sicuramente però spiegare, perché un minimo di spiegazione ci deve essere. E credo che la cura sia importante, non solo da parte dello chef verso il cliente, ma anche del cliente verso se stesso. Io dico sempre, e non è una battuta che faccio, dico sempre che il motto del gastronauta si mangia con la testa e non con la pancia, perché credo che ognuno di noi si debba ascoltare anche quello di cui ha voglia, ha bisogno. Molti ricorrono alle diete, probabilmente diciamo che ci sono dei confini tra la salute e il resto della nostra vita, però chi non ha bisogno di ricorrere alle diete o ad altro dovrebbe ascoltarsi di che cosa voglia. Io credo che il corpo ogni tanto mandi dei segnali importanti, non sono medico ma credo che questa debba essere così, sia una verità. Cioè, la verità è quando uno ha necessità di carboidrati e ha bisogno di pasta, cioè lo sente perché ha voglia di quella pasta. Tutti dicono è vero che di solito piace sempre quello che fa male, che è un detto popolare ma può avere anche buona parte di ragione, però io credo che molte volte ci siano questi stimoli importanti di aver bisogno di qualcosa, ecco allora bisogna, non dico lasciarsi andare, ma ricorrere a quello senza ricorrere alle diete. Io credo che questo voglia dire star bene, poi avere i propri limiti ad esempio sul bere vino. Ognuno di noi io credo che sappia dove può arrivare e dove non può arrivare e quindi che possa controllare se stesso su questo. È evidente che qualche volta, come dice anche un mio amico nutrizionista, una volta a settimana forse si può andare anche al di là di qualche regola, non di ubriacarsi, però magari andare anche oltre certi confini, magari un bicchiere in più di vino o un etto di più di qualcosa di quello che si mangia. E io credo che volersi bene e aver cura della propria salute vuol dire proprio questo, di sapersi ascoltare. Credo che sia fondamentale per la nostra salute. Concordo con te, Davide, sarebbe metterti insieme a Ongaro e sentire quanto sei d'accordo lui, ma credo tendenzialmente sì. Davide, io ti ringrazio, buona domenica e continuo a leggere il tuo menù. Io non ce ne ho nessuno, grazie al cielo, sotto mano, se no mi verrebbe già fame adesso. Ciao. Ma non sto mangiando, però lo vedo. E intanto lo guardi. Ma mi pento di piatti che non ho preso ieri sera. funziona così, infatti. Così ci ritorni. Grazie Davide, ciao. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Prima del nostro gioco vi ricordo Picasso in 24 minuti. Per voi oggi la possibilità di andare a Malaga, un viaggio per due persone. Poi vi spiego nel dettaglio che cosa vi aspetta sui luoghi. Ovviamente le grandi artiste. Il numero per prenotarvi è 800 24 00 24. E prima delle previsioni del tempo, la nostra rubrica sulla cultura dei videogiochi. Video game. È il momento di tirar fuori la vostra chitarra o il vostro basso. Da oggi si suona sul serio. Rocksmith è il primo videogioco della storia che permette di suonare una vera chitarra o un vero basso collegata a un Xbox, una PlayStation 3 o un PC con un cavo speciale contenuto nella confezione. In realtà non si tratta propriamente di un videogioco, ma piuttosto di un vero e proprio maestro di musica virtuale, capace di insegnare a suonare anche a chi non ha mai preso in mano una chitarra. Le aree evidenziate sul manico della chitarra, le posizioni di riferimento, indicano dove mettere le dita per suonare le note e dove muoverle per quelle successive. Passare da una posizione di riferimento a un'altra si dice spostamento. I neofiti potranno strimpellare i loro pezzi preferiti e nel frattempo imparare a suonare seriamente lo strumento, mentre i chitarristi con un minimo di basi potranno migliorarsi e imparare nuovi accordi o giri armonici. Preparati a suonare l'accordo completo. Ma la vera forza di Rocksmith è l'autenticità. Se non si impara a suonare realmente, non si va avanti e non si potrà accedere alle esibizioni live, cioè dei veri e propri concerti con tanto di pubblico in delirio, sulle basi, tra l'altro, dei brani più famosi che hanno fatto la storia del rock negli ultimi 50 anni. Quello della musica è da sempre un mondo affascinante, ma per molti anche un'esperienza fine a se stessa. È troppo tempo per imparare e poco per esercitarsi, scarsa pazienza e rinuncia alle prime difficoltà. Insomma, imparare a suonare uno strumento musicale richiede non solo talento, ma sicuramente molto impegno e tantissima costanza. A meno che misurarsi con la chitarra non voglia dire anche giocare con un videogame, al quale collegare persino uno strumento vero. E in questo modo cambia tutto, soprattutto per i nativi digitali. E in questo senso Rocksmith è la prova tangibile che sempre più computer e console stanno assumendo un ruolo multiforme nell'industria culturale e sono sempre più utili alla crescita personale. Picasso in 24 minuti. Per voi ascoltatori, la possibilità oggi di viaggiare a Malaga in due, un soggiorno di due notti per due persone in camera doppia, poi l'ingresso e la visita guidata in italiano al Museo Picasso di Malaga, l'ingresso e la visita guidata alla casa natale di Picasso, ovviamente la visita panoramica di Malaga con il bus turistico e poi la visita guidata della Malaga di Picasso, tutto in lingua italiana. Questo è il contenuto del pacchetto che l'ente del turismo spagnolo, scusatemi, mette a disposizione per voi e per riuscire a portarvi a casa questo pacchetto dovete anche riuscire a indovinare qual è l'opera di Picasso che in qualche modo ha a che fare con l'indizio, la canzone che tra poco vi farò ascoltare. Il numero verde per prenotarvi è 800 24 00 24. Dico subito che si porterà a casa il pacchetto la prima persona che indovinerà. La risposta giusta la sapremo soltanto alla fine del 24esimo minuto e se ci fossero altri ascoltatori che riescono a indovinare l'opera, perché secondo loro è proprio quella, se arrivano per secondi o terzi si portano a casa la guida della mostra, quella a Palazzo Reale a Milano, e il biglietto d'ingresso. Quindi insomma, premi per tutti per tutte le persone che riusciranno a indovinare. A un certo punto della puntata, se proprio non riuscite a scovare qual è l'opera, vi aiuterò con un altro indizio, ma lo decideremo noi e non potrete sceglierlo voi. Il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 00 24 e questo è l'indizio. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Passare. E quanti amori avrai? Che cosa gli dirai? E quanto anche di me? Questo è un grande successo di Alex Baroni, Cambiare. Marina dalla provincia di Reggio Emilia, bentornata. Marina, buona domenica. Ciao Marina. Ciao. Allora, questo è l'indizio che ti invita a cercare un'opera di Picasso legata in qualche modo a questa canzone. Hai qualche idea, Marina? Oggi è un pochino più difficile, sì, è vero. Del resto c'è questo viaggio per due persone a Malaga. Ma provavo a dirne una, ma non so. Prova, Marina. Le tre età dell'uomo. Non posso dire niente, lo sai, questa volta funziona così, lo scoprirete solo alla fine. Ciao Marina, buona giornata. Ciao Franca. Grazie. Da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno Franca, ciao. Buongiorno Stefano. Sì, sono Franca. Scusa, perché sono fra un arrosto e le patate. Ecco, brava, buono. Allora, Franca, questa canzone ha sicuramente a che fare con l'opera di Picasso, che vorrei... che qualcuno indovinasse, ma Franca, hai qualche idea? Per me, guarda, molto difficile, mi sono un po' scervellata, ma sai, le opere di Picasso poi hanno un po' gli stessi titoli che quello è vero, però questo, hai ragione, però questo è un titolo veramente... è un titolo che non si ripete, ecco. Non si ripete, ma senti, io provo, siccome si parla di amore, allora provo il bacio. Grazie Franca, buona giornata. Ciao, grazie. Diego da Milano, buona giornata Diego. Buona giornata Stefano. Allora, difficilissimo. Sai, io come sempre qui oggi non posso... La rabbia è che oggi non è che posso aiutarvi troppo, ovviamente. Diego, è anche vero che non è così difficile in realtà. Ma è un'opera che non posso sposta a Milano? No. Allora, sì, tendenzialmente tutte le opere delle quali, quasi tutte le opere delle quali abbiamo parlato nel corso di Picasso 24 minuti sono quelle esposte a Palazzo Reale a Milano, sì, alla mostra di Picasso. Ok, mi butto perché tanto. Paolo nei panni del Arlecchino. Grazie Diego, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. 800 24 00 24 Giuseppe da Torino. Salve, buongiorno. Giuseppe, allora, che cosa... Ma... Quale opera potrebbe essere? Il sogno. Il sogno. Grazie Giuseppe. Prego. Grazie. Carla, dalla provincia di Cuneo. Carla. Buongiorno Carla. Hai capito l'indizio? Qual è? Quale canzone è? Carla. Ma io ho pensato al quadro L'ombra. L'ombra. Grazie Carla. L'ombra. Non posso dire nulla. Grazie Carla. Buona domenica. Ciao. Adesso, grazie. Buongiorno. Allora, Elisa dalla provincia di Genova. Elisa, ciao. Io aspetta, Elisa, fermati un attimo, respiriamo un attimo. La mia domanda è: hai sentito l'indizio, la canzone? Sì, ecco. Ho letto bene il testo, ci ho provato. Ok, il titolo è Cambiare di Alex Baroni. Sì. Ok, non dico più niente. Elisa, quale potrebbe essere il quadro? Io provo a dire Las Meninas. Grazie Elisa, buona giornata. Ciao, grazie. Giulia, dalla provincia di Monza e Brianza. Sì, buongiorno. Ciao Giulia. Io tento con un colazione sull'erba Manet. Dimmi, scusami? Colazione sull'erba, dopo Manet, il rifacimento dell'opera di Manet. Sì. Grazie. Io mi chiedo cosa abbia... Ah, perché tu dici cambiare e quindi in qualche modo cambiare l'opera. Questo è il senso, secondo te, sì. Cristina? Non lo so. Non posso dire nulla. Grazie, Cristina. Però hai elaborato il pensiero. Allora, prima di andare con gli aggiornamenti sul traffico, io vorrei sentire Luca Scarlini che ci racconta un altro momento della vita di Pablo Picasso. Misia Sert rompe le ceramiche con il suo amico Pablo Picasso. Misia Sert era una persona fondamentale a Parigi. Era polacca, pianista e aveva un famoso salon in cui comparivano tutti gli intellettuali e gli artisti della città. Era molto amica di Picasso e ha scritto un'autobiografia in cui il pittore compare molte volte. Negli anni 50, quando Picasso era l'artista più famoso del mondo, egli produceva ceramiche e Misia andava a trovarla a Valorisso, nelle altre ville che aveva nel sud della Francia. Avevano come divertimento quello di rompere a fine pasto i piatti con le decorazioni di Picasso che a quell'epoca i collezionisti si contendevano in giro per il mondo. Picasso in 24 minuti. Cristina, dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Ciao. Cristina, ciao. Sai cosa devo fare? Tu sei un po' sei fortunata, possiamo dire in un certo modo. Nel senso che nessuno prima è riuscito a indovinare. Per cui sentiamo un altro... Ma io ci provo. Ah, sì. Io dico gli amanti. Grazie, Cristina. Buona giornata. Grazie, ciao. Io, Alessia, dalla provincia di Brescia, buongiorno. Ciao, Alessia. Buona domenica a tutti. Alessia, senti, io vi do un altro aiuto, va bene? Sì. Sì, ecco. Okay. Eccolo qui l'aiuto, arriva. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mi scuso con Renata Bertè per entrare prima dell'inciso della canzone, ma sennò fa via troppo tempo. Alessia, dalla provincia di Brescia, questa era una canzone famosissima, Il mare d'inverno, ed è un aiuto sicuramente in più sull'opera di Picasso che vorrei qualcuno riuscisse a indovinare. Alessia. Aia, mi ha portato un po' fuori strada, io avevo pensato alla Reza, il sogno. Grazie Alessia, buona giornata. Antonio da Brescia, buongiorno Antonio. Buongiorno. Antonio, qual è l'opera di Picasso al quale mi riferisco con questi indizi? Le Bagnanti. Eh beh, dice il mare d'inverno. Però prima c'era cambiare gli Alex Baroni, Antonio. Sì, in effetti mi ha messo fuori strada questo secondo. Non posso dire niente, vado avanti. Ciao Antonio, grazie. Ciao. 800 24 00 24, l'ente del turismo spagnolo mette a disposizione un volo per due persone a Malaga, un soggiorno di due notti con tanto di visita. Giovanni dalla provincia di Cremona, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Mi è messo un po' fuori strada perché già tre titoli abbiamo inviato. Adesso provo a dire le donne che corrono sulla spiaggia. Donne che corrono sulla spiaggia. Adesso però vi siete spostati su quell'argomento lì intanto. Grazie Giovanni, non posso dire nulla. Buona giornata. Maria da Milano, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, grazie, buona domenica a voi. Maria, abbiamo pochissimi minuti. Ok, subito lo dico, il ritratto di Olga in poltrona, prima avevo pensato il sogno anche le Bagnanti, ma mi avete cambiato tutto, quindi dico il ritratto di Olga in poltrona. Grazie Maria, ciao. Che rabbia. Isabella da Como, buongiorno. Buongiorno a voi. Isabella, allora mettiamoci qui, con calma. Analizziamo gli indizi, facciamo come Sherlock Holmes. Il primo era Alex Baroni con Cambiare, poi abbiamo avuto la Bertè, Loredana Bertè con Il mare d'inverno. Io ho pensato al ritratto di Olga seduta. Grazie Isabella, buona domenica. A lei, grazie. Ciao, grazie. Chiara dalla provincia di Milano. buongiorno. Chiara, eccoci qua. Allora, io provo con Donna con lo scialletto blu. Grazie Chiara, ciao. Buongiorno. 800 24 00 24 per cercare di capire l'opera di Picasso alla quale questi indizi si riferiscono, e vi devo dire che fino adesso nessuno è riuscito ancora a portarsi a casa il viaggio a Malaga. Marcella dalla provincia di Teramo, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Io Marcella. Avevo pensato all'eternità dell'uomo. Grazie Marcella. Grazie a voi, buongiorno. Buondì. Federica da Trento. Federica, ci sei? Pronto, Federica? Federica da Trento. Abbiamo perso Federica. Sentiamo ancora Luca Scarlini che ci racconta ancora un momento della vita di Picasso. Picasso, accusato di aver rubato la Gioconda. Pablo Picasso, insieme a Guillaume Apollinaire, il gran poeta, venne accusato dalla polizia francese, dopo il furto della Gioconda dal Louvre nel 21 agosto 1911, di essere stato il ladro. Si disse, da una parte, che c'era da parte sua e di altri artisti una specie di lavoro da ricettatore per mettere sul mercato statuette antica, dall'altra invece che gli artisti d'avanguardia, odiando l'arte antica, avrebbero rubato la Gioconda per fare uno sbelreffo. In realtà non era niente di vero, e non era stato minimamente Picasso né Apollinaire a togliere il quadro dal Louvre, ma un imbianchino italiano nazionalista, Vincenzo Peruggia. Un altro momento anche curioso, grazie a Luca Scarlini, scrittore, che ci racconta l'arte di Picasso. Siamo con Ernesto da Roma. Ernesto, pronto? Buongiorno. Buongiorno Ernesto. Sai che abbiamo due minuti. Un po' casino, io provo a dirne uno. Sì. Dimmi Ernesto. La bevitrice di Assenzio. Grazie Ernesto, buona domenica. Grazie. Federica da Trento. Federica, no, non c'è più. Mauro da Arezzo. Sì, buongiorno. Buongiorno Mauro, mettiamo insieme questi due indizi, cambiare Alex Baroni e Il mare d'inverno, Rana Bertè, per capire qual è l'opera di Picasso alla quale mi riferisco. Arlecchino. Grazie Mauro, non posso dire nulla, Ok, grazie, buongiorno. Io chiudo con Savino da Trani. Savino. Sì, salve. Sì, forse l'hanno già detta, il sogno per me. Grazie Savino, grazie. Prego, grazie. E non siamo riusciti a dare il viaggio, lo faremo la settimana prossima. Per forza di cose, non era previsto, ma lo prevedo io adesso. E eravamo convinti di riuscirlo a dare, invece niente da fare, e quindi la settimana prossima ancora ci sarà questa possibilità, e poi come sempre c'è il riposo del guerriero che vi aspetta puntuale come sempre alle 10, quindi buona settimana da Stefano Gallarini, e poi grazie come sempre a Giorgio De Luca per la redazione, a Nadia Zammitti per l'assistenza, a Paolo Corleone in regia, e a voi ci sentiamo domenica prossima alle 10, ciao!